dagli occhi grandi e belli come il mare, il suo nome era Che Guevara. Sera, il suo nome era Che Guevara.